Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, ma potete tranquillamente ascoltarci anche sul web in tutto il mondo grazie all'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. Nonché dall'inizio dell'anno siamo anche in DAB sulle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana. Quindi un saluto naturalmente come sempre agli emiliano-romagnoli, ma anche in questo caso ai lombardi e ai toscani. Inizio dell'anno per me è abbastanza problematico, sono stati alti e bassi, per cui la trasmissione che sta per andare in onda, che si chiama Città Fujiko Live Club, è andata avanti a sprazzi, diciamo così, ma adesso la mia schiena è in miglioramento e spero di non avere più dei buchi durante la settimana. Comunque, dicevo, Città Fujiko Live Club ogni mercoledì più o meno si premura di farvi ascoltare musica dal vivo di tutte le epoche e di quasi tutti i generi. E Radio Città Fujiko inizia sempre con, Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, e anche oggi abbiamo una novità veramente molto molto interessante. Ribadisco ancora una volta che quando propongo una novità è una novità per quel che riguarda la mia trasmissione. Infatti l'album che ci andremo ad ascoltare oggi è uscito ormai da qualche mese, per cui potrete sicuramente averlo ascoltato in tutte le radio del mondo, compresa naturalmente Radio Città Fujiko. E la novità che dicevo che riguarda la trasmissione che state ascoltando oggi è ad opera di un grandissimo cantante autore che purtroppo ci ha lasciato ormai diversi anni fa, e si chiamava Warren Zevon. Warren Zevon veniva da Chicago, è nato a Chicago, anzi, ma in età molto giovane, insieme alla famiglia naturalmente, si spostò in quel di Los Angeles e lui è diventato un'icona della musica californiana. Fra parentesi, narra la leggenda che fosse vicino di casa di Igor Stravinsky e ogni tanto andasse a casa sua ad ascoltare un po' di musica, però questa è una cosa non verificata, diciamo così, anche se lui diceva che era vera. Lui è stato innanzitutto un songwriter, cioè uno scrittore, uno che costruiva le canzoni per altri e anche costruiva jingle, quelli che sono quelle della pubblicità appunto, però poi dopo lo convinsero a fare un album in proprio, album che si chiama Wanted Dead or Alive, uscì nel 1970, ma non ebbe nessun successo. Il successo arrivò 8 anni dopo con un album bellissimo che si chiama Excitable Boy, un album che racchiude alcune delle canzoni migliori in assoluto, non solo di Warren Zevon ma di tutta la musica californiana. Aveva dei testi molto sarcastici, molto umoristici, lui era un personaggio veramente incredibile, e ha pubblicato diversi, chiaramente, album in studio più 2 album dal vivo completamente diversi l'uno dall'altro. Il primo si chiama Stand in a Fire ed era un album rock ai massimi livelli, molto molto bello. L'altro invece si chiama Learning to Flinch ed era solamente acustico e in solitaria, quindi assolutamente diverso. Poi, come vi dicevo un paio di mesi fa, forse anche di più ormai, è uscito questo epilogue Live at Edmonton Folk Music Festival. È un album live registrato in duo acustico, appunto al festival, questo festival di Edmonton in Canada. È stato registrato il 9 agosto del 2002 e il brano che vi propongo per primo è un brano che si chiama Hit Somebody the Hockey Song, cioè colpisci qualcuno la canzone dell'hockey, perché lì se le danno di santa ragione, e ce l'andiamo subito ad ascoltare. Mr. Warren Zevon. Say what? You love me? Then I will test your love. I wrote this song with a friend of mine named Mitch Album, a sports writer. And I recorded it a couple of years ago with a friend of mine named David Letterman. I don't know if you get him up here. But don't worry, I'm gonna make an alternate version with Mike Bullard. By the borderline, he started playing hockey by the time he was nine. His dad took the hose, froze the backyard. Little buddy dreamed he was Rocket Richard. He grew up big and he grew up tough. He saw himself scoring for the Wings or Canucks, but he wasn't that good with the puck. But his real talent was beating people up. His heart wasn't in it, but the crowd ate it up. Through peewees and juniors and midgets and mites, he must have racked up more than 600 fights. When a scout from the Flames came down from Saskatoon, there's always room on our team for a goon. Son, we've always got room for a goon. And there were Swedes to the left of the Russians to the right, a check at the blue line looking for a fight. Brains over brawn, it might work for you, but what else can a poor boy from Canada do? Hit somebody! What else can a poor boy from Canada do? Hit somebody, and the crowd roared when Buddy the Goon went over the boards. Coach, he'd say, I wanna score goals. The coach said, Buddy, remember your role. The fast guys get paid, they shoot and they score. Protect them, Buddy, that's what you're here for. Protection, that's what you're here for. Protection, hell, it's the scars you score. Protection, God, kick somebody's ass. Protection, don't put the biscuit in the basket. I just hit somebody, it rang in his ears. Blood on the ice ran down through the years. The king of the goons with a box for a throne, a thousand stitches and broken bones. He never lost a fight on his icy patrol, but deep inside, Buddy always dreamed of a goal. He just wanted one damn goal. There were Swedes to the left of him, Russians to the right, a check at the blue line looking for a fight. Brains over brawn, that might work for you, but a Canadian farm boy to do? Hit somebody. What else can a poor boy from Canada do? Hit somebody. What's a Canadian farm boy to do? Hit somebody. What else can a farm boy from Canada do? In his final season, on his final night, Buddy and a Finn goon were pegged for a fight. 30 seconds left, and the puck took a roll. And suddenly, Buddy had a shot on goal. The goal he committed, Buddy picked his spot. 20 years of waiting went into that shot. The fans jumped up and the Finn jumped too. and Cole caught Buddy on his follow through. The big man crumbled, but he felt all right, 'cause the last thing he saw was the flashing red light. He saw that heavenly light, and there were Swedes to the left and Russians to the right. A check at the blue line looking for a fight. Take care of your teeth, well that might work for you. But what's a Canadian farm boy to do? What else can a farm boy from Canada do? What's a Canadian farm boy to do? What else can a farm boy from Canada do? What's a Canadian farm boy to do? What else can a farm boy from Canada do? What's a Canadian farm boy to do? What else can a farm boy from Canada do? Dedicata al suo caro amico David Letterman, che spero tutti voi conosciate, poi ne parleremo fra un po' di David Letterman ancora. Il brano, come dicevo, si chiama Hit Somebody, fra parentesi, The Hockey Song, la canzone dell'hockey, che adesso sta andando molto di moda, visto anche le Olimpiadi invernali in atto. E il tutto registrato, come vi dicevo, il 9 agosto del 2002 e inserito in questo nuovo album, si fa per dire nuovo nel senso di uscita, che però racchiude questa registrazione di oramai 24 anni fa. E Warren Zevon, come vi dicevo, è stato un grande autore, e quindi in questa prima parte della trasmissione ci ascolteremo brani suoi rifatti da altri, dicasi covers. Beh, questo forse è il suo brano più famoso, ma ce lo ascolteremo fra un po', perché adesso andiamo ad iniziare con una band credo praticamente sconosciuta dalle nostre parti, ma a dire il vero sconosciuta abbastanza anche negli Stati Uniti, tanto che questi Resentments hanno molto più successo in Europa, soprattutto in Germania e Francia, rispetto al Texas, che è la loro sede, la loro città di provenienza, Austin, e la loro sede naturale. Però sono spesso in Europa, incidono per la Blue Rose, che è una casa discografica tedesca, e come dicevo sono sicuramente più famosi in Europa che negli Stati Uniti. Qui abbiamo una serie della Blue Rose che consiglio caldamente, si chiama Official Blue Rose Bootleg Series, sono una serie di registrazioni effettuate praticamente tutte in Germania, da parte di bands quasi tutte americane, che incidono anche solamente questo album per la Blue Rose appunto. L'album che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato in un locale che si chiama Sinkasten di Francoforte, appunto in Germania, era il 29 settembre del 2003. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è la title track del nono album in studio di Warren Zevon, si chiama Mutineer, e loro invece sono Resentments. Yo-ho-ho and a bottle of rum, hoist the mainsail, here I come. Ain't no room on board for the insincere. You're my witness, I'm your mutineer. Now I was born to rock the boat. Some may sink, but we will float. Honey, grab your coat and let's get out of here. You're my witness, I'm your mutineer. Long ago we laughed at shadows, lightning flashed and thunder followed us. It won't ever find us here. You're my witness, I'm your mutineer. ago we laughed at shadows. Thunder crashed and lightning followed us. It can't ever find us here. You're my witness, I'm your mutineer. I was born to rock the boat. Some may sink, but we will flow. Grab your coat and let's get out of here. You're my witness, I'm your mutineer. Yes. You're my witness, I'm your mutineer. Straight down the line, baby. You're my witness, I'm your mutineer. Thank you. Ebbene sì, due volte la stessa canzone, ma in due versioni chiaramente diverse. Mutineers, la prima versione era quella dei Resentments, mentre quest'ultima, la voce è inconfondibile, quella di Mr. Zimmerman, detto anche Bob Dylan, e questa versione di Mutineer arriva da una raccolta che si chiama Enjoy Every Sandwich, raccolta che uscì praticamente un anno dopo la morte di Warren Zevon, assemblata dal figlio, che comprende un sacco di buona gente, a dire il vero, Don Henley degli Eagles, Steve Earle, Jackson Browne naturalmente perché era un suo amico, i Wallflowers, Billy Bob Thornton, Pete Yorn e altri, fra cui quello che ci ascolteremo anche fra un po' dopo la pubblicità, perché questa raccolta ha questo titolo, ritorna in campo, ve l'avevo preannunciato, David Letterman, che era molto amico di Warren Zevon è stato diverse volte al Late Show di David Letterman, e appunto anche in occasione dell'annuncio, diciamo, della grave malattia che ha colpito Warren Zevon, che poi l'ha portato alla morte, lui non mancò di essere ironico quando David Letterman gli chiese cosa consigli alle persone come te che sanno che più o meno stanno morendo, e lui disse: il mio consiglio è quella enjoy every sandwich, cioè gustati tutti i sandwich, scusate, non è poco. David Lindley è un personaggio cosiddetto di secondo piano, un gregario, suona tutti i tipi di strumenti a corde che potete immaginare, anche quelli che vi potete inventare, e iniziò negli anni 60 insieme a un gruppo che si chiama Kaleidoscope, poi ha iniziato una serie di collaborazioni praticamente con tutto il gotha della West Coast e della musica americana. Invece Annie Neser è un personaggio che oltre a suonare percussioni suona l'oud, che è uno strumento a corda del Medio Oriente. Lui infatti viene dalla Giordania, però è andato a New York insieme alla famiglia all'età di 7 mesi, per cui della Giordania non si ricorda assolutamente niente. Il duo ha fatto 3 album insieme, 2 sono dal vivo, tutti e 2 registrati in quel di Tokyo. Il brano che ci andiamo ad ascoltare viene da un album del 1980 di Warren Zevon che si chiama Bad Luck Strike in the Dancing School, e il brano si chiama Play It All Night Long, suonalo tutta la notte. David Lindley più Annie Neser. This next song is a song written by Warren Zevon, and this is one of his strangest and one of his best. Brother Billy's got both guns drawn. drawn. He ain't been right in Vietnam. He ain't been right in Vietnam. It ain't been. Sweet home Alabama, play that dead band song. Turn those speakers up full blast, play it all night long. Yeah, play it all night long. Play it all night long. Yeah, play it all night long. Daddy's doing Sister Sally. Grandma's dying of cancer now. The cattle all have brucellosis. We'll get through somehow, yeah. We'll get through somehow. Sweet home Alabama, play that dead band song. Turn those speakers up full blast. Play it all night long. Start tonight with a song in memory of my great friend Warren Zevon. Warren passed away a few days ago, but he was one of the great, great American songwriters, and I love him. I'm gonna miss him very much. This is one of Warren's songs called "My Ride Is Here." I was staying at the Marriott with Jesus and John Wayne. I was waiting for a chariot. They were waiting for a train. sky was full of carrion. I'll take the mazuma, said Jesus to Marion. That's a 310 to you, my ride's here. My ride's here. My ride's here. My ride's here. The Houston sky was changeless. We galloped through blue bonnets. I was wrestling with an angel. You were working on a sonnet. You said, I believe the seraphim will gather up my pinto and carry us away, Jimmy, across the sand you sit on. My ride's here. My ride's here. My ride's here. My ride's here. Come on, Susan. And Keats, they were out in the street, and even Lord Byron, he was leaving for Greece. While back at the Hilton, last but not least, Milton was holding his sides. He said, you bravos, you better be ready to fight, or we'll never get out of East Texas tonight. The trail is long and the river is wide, and my ride's here. My ride's here. My ride's here. My ride's here. I was staying at the Westin. I was playing to a draw. When in walked Charlton Heston with the tablets of the law. He said, it's still the greatest story. I said, man, I'd like to stay, but I'm bound for glory. Yeah, I'm on my way. My ride's here. My ride's here. My ride's here. My ride's here. My ride's here. My ride's here. My ride's here. My ride's here. My ride's here. My ride's here. Tre giorni dopo la morte di Warren Zevon, Bruce Springsteen, la E Street Band erano in concerto allo Sky Dome di Toronto in Canada e omaggiarono l'amico Warren Zevon, appunto, con questo brano che si chiama My Ride's Here, che è la title track dell'undicesimo album in studio di Warren Zevon. Era il 10 settembre del 2003 e Bruce naturalmente non poteva esimersi dal, come ha fatto altre volte anche in occasione della morte di David Bowie o altri, non poteva esimersi dal omaggiare appunto Warren Zevon con questa My Ride's Here. Sono gli unici due brani dal vivo, quello di Bruce e quello di Bob Dylan, che arrivano appunto dalla raccolta Enjoy Every Sandwich, del quale vi ho parlato prima. Credo che non tutti conoscano Mickey and the Motor Cars. È un quintetto che arriva dall'Idaho, ma dal 2002 ha traslocato, è andato a stare ad Austin, Texas, che è una città molto musicale, piena di musicisti. La curiosità extra musicale di questi Mickey and the Motor Cars è che due dei fondatori sono fratelli, si chiamano Brown, e sono fratelli di altri due Brown, che sono fra i fondatori di una band che si chiama Reckless Kelly, quindi due paia di fratelli impegnati musicalmente. Ma a noi interessano Mickey and the Motor Cars. L'album si chiama Live at the Billy Bob's Texas, che è uno di quei locali tipicamente americani che avrete visto mille volte nei film, e spero per voi anche dal vivo, dove si suona, dove ballano, dove c'è un po' di tutto, insomma. E questo è un doppio CD più DVD che è stato registrato il 26 giugno del 2009 a Fort Worth, Texas, dove è appunto la sede del Billy Bob Texas, che è uno dei locali più famosi nel campo della musica country rock. E quindi ci andiamo ad ascoltare un super classico di Warren Zevon, uscito da un album del 1978 che si chiama Excitable Boys, Boy, anzi singolare, e il brano invece è tutto plurale, si chiama Liars, Guns and Money, avvocati, pistole e soldi, che è quelli che chiede un figlio al proprio padre per risolvere una certa situazione che appunto è citata nel titolo, nel testo della canzone. È l'ultima traccia di questo Excitable Boys. Loro invece sono Mickey and the Motor Cars dal vivo a Fort Worth in Texas. Lawyers, Guns and Money. Took a little risk. Sent lawyers, guns, and money. They try to get me out of this. Oh! I am an innocent bystander. Yeah, but somehow I got stuck. Between a rock and a hard place, and I'm down on my luck. Yeah, I'm down on my luck. I said I'm down on my luck. And I'm hiding in Hondas, and I'm a desperate man. Hit the fan. That's Warren Zevon tune in. I'm so far down. Shit has hit the fan. Ancora un bis, ancora due canzoni, la stessa canzone in due versioni diverse, era Guns Like, anzi scusate, era Lawyers Guns and Money, che abbiamo ascoltato la prima versione da parte di Mickey and the Motor Cars, questa un po' più duretta, avrete riconosciuto la voce, quella di Meat Loaf, che veniva dal Texas, è stato anche un attore, che sicuramente ricorderete la sua partecipazione a Rocky Horror Picture Show, film sempre grandissimo. Ha avuto un successo più che planetario, proprio direi stellare, con un brano che si chiama But Out of Hell, scritto però da Jim Steinman, un altro grande personaggio, e questa Lawyers, Guns and Money viene da un album che si chiama VH1 Storyteller, che era una trasmissione televisiva americana dove, come sentite, oltre a cantare, poi lo dice il titolo stesso, Storyteller, loro raccontavano la storia della loro vita, più o meno naturalmente. Meat Loaf, per la cronaca, per gli amici, è autore anche di un brano bellissimo che si chiama Paradise by the Dashboard Light, che è una delle canzoni della mia top 10 personale. E comunque, quando si parla di buona musica, non può non apparire il nome di Willie DeVille. Lui iniziò negli anni 70 con un album che, come il gruppo, si chiamava Mink DeVille, e poi si è messo in proprio, purtroppo è morto nel 2009 e anche lui ci ha lasciato troppo presto. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Acoustic Trio Live in Berlin, anche se in realtà le ultime 8 canzoni sono state registrate al Burns di Stoccolma in Svezia il 10 marzo del 2002. Uno di questi 8 brani è un brano scritto da Warren Zevon. Vi dicevo prima che lui ha iniziato come autore di canzoni, e infatti la versione originale di questa Carmelita che ci andremo ad ascoltare è stata registrata da un musicista cantante canadese che si chiama Murray McLaughlin. e nel suo album omonimo del 1972. Quindi andiamo a Willie DeVille, il brano, lo ripeto, si chiama Carmelita ed è uno dei brani di punta della produzione di Warren Zevon. On my radio of a Tuesday glow in the dark, I was with you in Ensenada, now I'm stuck here in Echo Park. Now come on, Lila, hold me tighter, I believe I'm sinking down, and I'm so strung out on heroin, all the air get to ten. Oh, well, I pawn my Smith and Wesson, and I went to meet my man, who hangs out on Everado Street by the Pioneer Chicken Stand. Now come on, Lita, hold me tighter, down to dinner in a Sunday best, excitement, boy, they don't Il 16 ottobre del 2022, in occasione di un festival a Monterey, California, Shooter Jennings, figlio di Waylon e di Jesse Coulter, due famosissimi cantanti country, assemblò una super band che chiamò Werewolves of Los Angeles e incise in quell'occasione questo album che si chiama Doe Warren, scusate. E niente, ci sono tutte canzoni di Warren Zevon che sono fatte alla grande da questa super mega band, tutti musicisti collaudatissimi e bravissimi. E il brano che ci siamo ascoltati era title track del suo album omonimo, si chiama Excitable Boys, ed è boy, ancora una volta ho sbagliato perché è singolare, e finisce questa prima parte di Città Fujiko Life Club di oggi, doveroso omaggio a questo grande cantante, grande personaggio che si chiamava Warren Zevon. I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fook's. Gonna get a big dish of beef chow mein. Ahoo! Werewolves of London. Ahoo! Werewolves of London. Hear him howling around your kitchen door. You better not let him in. Hey! Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of Edmonton again. Ah-hoo. Werewolves of London. Werewolves of London. He's the hairy-headed gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. Better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. Hey! I'd like to meet his tailor. Ahoo! Folk music. Ahoo! English folk music. I saw Lon Chaney walking with the Queen. They were doing the Werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen. They were doing the Werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada in Trader Vic's. And his hair was perfect. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, come sempre è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi. Ribadisco ancora una volta, novità per quel che riguarda Città Fujiko Live Club, appunto 103.1 MHz di modulazione di frequenza da Bologna. E la novità di oggi è appannaggio di un grande grande personaggio che si chiamava Warren Zevon e che ha scritto un sacco di canzoni splendide, tipo questa che ci siamo ascoltati, che si chiama Werewolves of London, i lupi mannari di Londra. Chi ha visto l'omonimo film sa di cosa si tratta, e un altro film grandissimo, bellissimo. Comunque andiamo avanti. Il tutto è stato registrato all'Edmonton Folk Festival in duo acustico il 9 agosto del 2002 e Warren Zevon, o chi per lui per meglio dire, ha pubblicato questo album che si chiama Epilogue, Live at Edmonton Folk Music Festival appunto, e che comprende tutte canzoni fatte in maniera acustica dal grande songbook di Warren Zevon. I can make love or disappear. Ma come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel passare degli anni. Ancora una volta ce ne sono tantissime, so che sono tedioso ma è così, e per cui il criterio di scelta ancora una volta, a mio insindacabile giudizio, è un brano per ogni decade. And the spotlight is faded, and the plans that we made. E oggi iniziamo dagli anni 70, 1978, siamo in un periodo in cui Mr. Eric Clapton ha qualche problema, ma in realtà suona veramente da Dio. Lui viene da Ripley nel Surrey, compirà 80 anni il 30 marzo prossimo venturo, ma suona ancora alla grande quando vuole, ma questo è un altro discorso, non mi sto dilungare. Perché adesso ci andiamo ad ascoltare un brano molto lungo che arriva da un cofanetto che si chiama Crossroad 2. Sono quattro CD, Crossroad 2 Live in the 70s. Sono quattro CD, tutti veramente notevoli, con grandi improvvisazioni, grandi assolo, veramente una lezione di chitarra incredibile. Naturalmente è stato registrato in varie location. Il brano in particolare che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama The Core, è stato registrato al Civic Auditorium di Santa Monica, California, l'11 febbraio, quindi circa, diciamo, se no non sarebbe Recorded Today, no? 11 febbraio 1978, il brano, ripeto, si chiama The Core, lui è Sir Eric Clapton. Who's up? fire along the strip underneath the sign that's all around. Thank you. Mr. Eric Clapton, anzi come ho detto prima Sir Eric Clapton, siamo al Civic Auditorium di Santa Monica, 11 febbraio 1978, The Core, il brano che ci siamo ascoltati. Molto velocemente, perché visto che siamo un po' stretti, andiamo subito al 1980 insieme a una band che viene da Stony Brook, stato di New York, e che è attiva dal 1967. Si chiamano tuttora Blue Oyster Cult, anche se Buck Dharma, il chitarrista, è l'unico membro originale. Hanno fatto molti album sia in studio che dal vivo. Questo Extraterrestrial Live è stato registrato in diverse occasioni, in diverse locations, e il brano che ci andiamo ad ascoltare è il primo di questo album doppio o vinile, si chiama Dominance and Submission, è stato registrato al Mid-Hudson Civic Center, di un posto con un nome incredibile, Poughkeepsie, nello stato di New York, l'11 febbraio del 1980, Blue Oyster Cult, Dominance and Submission. Half of my life. se non avete capito bene, questo brano si chiama Dominance and Submission. Loro sono Blue Oyster Cult, Mid Hudson Civic Center di Poughkeepsie, stato di New York, 11 febbraio 1980. Molto velocemente veniva purtroppo anche lui uno di quelli che ci ha lasciato troppo presto e ha lasciato veramente un grande vuoto nel campo del canto. Lui si chiamava Jeff Buckley, è morto nel 1997 all'età di 30 anni dopo aver fatto un solo album in studio. Dopo la sua morte sono usciti diversi album postumi, fra cui molti dal vivo. Questo è uno di quelli, si chiama Live at Bataclan, è stato registrato nell'omonimo, purtroppo in maniera funesta, locale famoso di Parigi, l'11 febbraio di 1995. Il brano che ho scelto per voi, visto che siamo al Bataclan, è un medley di due brani francesi del quale mi rifiuto assolutamente di dire il titolo. Chiamiamolo medley. Jeff Buckley, 11 febbraio del 1995. Used to know a little square so long ago when I was small. All summer long it had a fair, wonderful fair with swings and all. I used to love my little fair, and at the close of every day I could be found dancing around a merry-go-round that used to play. Darling, I won't Shall I catch a shooting star? Shall I bring it where you are? If you want me to, I will. Hope I get this right. Ah, you can set me any task. I'll do anything you ask. If you'll only love me still. When at last a life on earth is through, I will spend eternity with you. If you love me, really love me, let it happen, darling. I won't Down on my bed, yeah. Tiny island goes rolling down the stream. Cause the light is living there is there. In the wind, scream, lay it there. Will the wind ever remember all the life that's flown in the past? With its crack, old age and its wisdom, Christ knows this will be the last. In the wind, sweet Mary. Theodore Joseph Horowitz, detto Ted, ma più conosciuto anche come Papa Chubby, viene dal Bronx, New York City naturalmente, grande chitarrista, grande persona, proprio nel senso di enorme persona, proprio fisicamente, e ha fatto diversi album dal vivo, anche il suo primo album del 1994, si chiama It's Chubby Time, era dal vivo. Lui è molto famoso in Francia, forse più che nella sua natale Stati Uniti, nei suoi natali Stati Uniti. Dicevo, ho fatto molti album dal vivo. Questo è uno di quelli, si chiama Electric Chubbyland, giocando, parafrasando quell'Electric Ladyland di Jimi Hendrix. Infatti è un triplo CD tutto dedicato, o quasi, a Jimi Hendrix. Due CD sono dal vivo, uno è in studio. I due live sono registrati al Corner Stage di Middletown, New York, l'11 febbraio del 2006, e il brano che ci siamo ascoltati, credo che non ci sia bisogno di presentazione, comunque si chiama The Wind Cries Mary. Naturalmente sono tutti brani di Jimi Hendrix, ma andiamo avanti con l'ultimo gruppo registrato nel 2012. Si chiamano Widespread Panic, sono una top jam band che arriva da Athens, Georgia, e sono attivi dal 1986. Come tutte le jam band, hanno fatto un sacco di album dal vivo, molti recuperabili solo sul loro sito, sia a pagamento che in download only, cioè sia in stato fisico che in download only. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Wood, è un doppio CD che racchiude registrazioni effettuate qua e là per gli Stati Uniti in maniera acustica, per questo si chiama Wood, come il legno delle chitarre che usano in questo caso. Siamo al Fillmore, in questo caso di Denver, in Colorado, l'11 febbraio del 2012, e il brano che ho scelto per voi è un brano che si chiama Mercy, loro invece si chiamano Whispered Panic. Thank you. Malgrado sia detto acustico, ed è acustico, la potenza veramente notevole da parte di questi Widespread Panic. Fillmore, Denver, Colorado, la location era l'11 febbraio del 2012, il brano si chiama Mercy e conclude questa Record Today di oggi, così ci dà il tempo anche di ascoltarci qualcos'altro da Warren Zevon, che è la novità che vi propongo quest'oggi. Dirò solamente che l'album di Warren Zevon è stato registrato all'Edmonton Folk Music Festival, si chiama Epilogue e ci andiamo ad ascoltare un brano che si chiama Case of You, però prima vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo al mercoledì dalle 10.30 alle 12.25. Nevio al microfono, vi ringrazio naturalmente per l'ascolto, vi do appuntamento mercoledì prossimo, stesse modalità d'uso, stesse frequenze, stesso web, stesso DAB e vi lascio in compagnia del grandissimo Warren Zevon. Il brano, lo ripeto, si chiama Case of You. Ciao a tutti da Nevio. Just before our love got lost, you said I'm constant as the northern star. I said constantly in the dark, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon poster, by the light of the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. Her name sketched on it twice. In my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I can drink a case of you. I would still be on my feet. I met a woman who looked like you. She knew your life. She knew your demons and your deeds. She said, go to her, love her, and stay with her as long as you can, but be prepared to bleed. In my blood like holy wine, it tastes so bitter and so sweet. I can drink a case of you. On my feet, I will still be on my feet. You're in my blood like holy wine. Tastes so bitter and so sweet. I can drink a case of you. Darling, I'll still be on my feet. And I'd still be on my feet.